Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al programa piloto de Hacia el Sur en el Atlántico. Una cita semanal o quincenal, dependiendo de cómo me vaya viendo yo de suelta, en Radio Onda Expansiva, que emite desde el punto de información juvenil JOCE de Valladolid. Yo soy Bea y hoy me acompaña Peter a los aparatos. Para quienes no lo conozcáis, la JOCE es una asociación juvenil sin ánimo de lucro con muchos años de recorrido ya en Valladolid. Cuenta con un local bastante amplio aquí en la Glorieta del Descubrimiento, junto a la Facultad de Industriales, y aquí se organizan talleres y se ofrecen servicios de asesoramiento y documentación para jóvenes y no jóvenes. Los proyectos que se suelen desarrollar aquí en la JOCE pues cubren ámbitos muy diversos. Sisterhood is Blooming, puntata numero 26. I microfoni con voi per un'oretta circa. Donna Sonica in rigore. La criminalizzazione della rabbia e il monopolio statale sulla violenza. Da una parte noi chiediamo un cambio culturale, quindi anche un uso non sessista del linguaggio e una visione non stereotipata delle donne, soprattutto mi riferisco ai mass media. Dall'altra, perché essere felice quando puoi essere normale? Dare la Palestina sotto attacco anche oggi. E le situazioni di migranti sono diventate ancora più problematiche, perché come dicevo tutti sono queer deve essere una posizione politica, è profondamente politica di critica. Poi ognuno può... Io ho trasformato Cicirinella in una ragazza dei giorni d'oggi che lavora in un call center, è sposata, è precaria e ha il problema della maternità. L'aspetto positivo è che finisce che insomma che lei non si sposa, che questo già nei film della Disney manco niente, non era mai successo, quindi già sta un passo avanti. Una tre quarti d'ora insieme per raccontarci un po' delle nuove uscite del mondo musicale al femminile. Saluto alle compagne che fanno come noi radio e comunicazione. È già il martedì autogestito da femministe e lesbiche, quest'anno compie 18 anni. Bueno, pues la idea del programma Hacia el Sur. E questo era un omaggio fatto alla nostra amica Bea Esteban, che dalla Spagna questa settimana ha cominciato il suo programma pilota che si chiama, cioè questo è il suo programma pilota del programma che si chiamerà Hacia el Sur e nell'Atlantico, ed è stata molto carina perché in questo pezzo del programma ha fatto un montaggio delle voci del martedì femminista e lesbico autogestito, che ringraziava per essere stata, diciamo, una fonte di ispirazione in questi ultimi due anni. Ci ascoltava silente dalla Spagna e con noi imparava l'italiano e si diciamo faceva coinvolgere nei discorsi femministi, queer, lesbici che facciamo da queste parti, nonché dalla musica che mettiamo, e quindi insomma ci ringraziava, in qualche modo ci citava come ispirazione del suo nuovo programma. Quindi grazie Bea, in bocca al lupo per il tuo programma. Il link per ascoltarlo e scaricarlo lo trovate sul Facebook di Sisterhood. Quindi Sisterhood può cominciare. Sigla. I wouldn't kill to win a war. I don't get what they do it for. It's all so terribly vague. I see the pictures from a thousand years of battle, and I think it's such a bore. I walk New Orleans with a knife, like Nike hidden. I'm not the killing type, I'm not. Amanda Palmer per cominciare Sisterhood is Blooming, puntata numero 30. Spero che vi sia piaciuta questa introduzione un po' originale per questa volta. Grazie a Bea ancora per la sua citazione e anche per i complimenti che ci ha fatto. Siamo contente che via www.ondarossa.info, come molti di voi anche in questo momento ci ascoltate, anche insomma se non potete farlo dalla radiolina nella vostra cameretta. Siete pronte, belle mie? Io, insomma, questa è la prima puntata dell'anno, quindi insomma ci sono un po' di cose da raccontarci, questo tre quarti d'orina da passare insieme, insomma vi faccio ascoltare un po' delle cose che ho ascoltato in questi giorni, devo dire un po' umorali, nel senso che diciamo esprimono un po' più che le nuove uscite quello che sto proprio ascoltando in sintonia col mio umore di questi giorni, quindi insomma non vi preoccupate, niente di triste, forse un po' meditativo, ma insomma troveremo di tutto nella playlist di oggi, un po' di elettronica, addirittura qualcosa che sfocia nella house con Maya Jane Cole. Abbiamo il nostro rock self garage, insomma, di cui sapete sono appassionata, e anche delle interessanti, è una cantautrice folk e altre bellissime voci femminili. Partiamo subito con Death and Vanilla. Attenzione se cercate questo nome su internet, perché ci sono un paio di gruppi metal, hard rock romeni che sono veramente terribili, insomma, che hanno un nome praticamente identico. Loro sono un duo americano, si chiamano Anders and Marlene, e fra qualche giorno uscirà per una etichetta molto carina che si chiama The Great Pop Supplement un 7 pollici che conterrà due bellissimi brani. In anteprima, Sisterhood is Blooming, lo sapete, non vi delude mai, in anteprima uno di questi due brani. Loro sono Death Vanilla e il pezzo che ho scelto si intitola From Above. Jump and run, run down the storm. Languida e psichedelica questa traccia dei Death Vanilla, insomma, che apre il nostro programma di oggi. Prossima artista si chiama Nicole Fox, in arte Coma, e il suo è un progetto molto interessante, molto particolare. Di lei si sa pochissimo, e su SoundCloud sostanzialmente i suoi upload, appunto i suoi caricamenti dei nuovi brani, vengono catalogati sotto il titolo di The Coma Collection, senza, diciamo, un'apposita collocazione in un album, in un EP, eccetera. Quindi, insomma, è molto interessante questo progetto. Quando l'ho ascoltata mi ha fatto venire in mente un po' quelle sonorità, soprattutto da un punto di vista vocale, che erano caratteristiche, sono caratteristiche ancora, devo dire, dei Massive Attack. Una cosa bella di questo pezzo che vi voglio far ascoltare, di quest'artista appunto che si chiama Coma, è il pezzo si intitola Wouldn't Be Good If It Was True, non sarebbe bello se fosse vero. E c'è questo pezzetto del testo che, insomma, mi ha un po' colpita e quindi mi ha anche fatta decidere di scegliere questo piuttosto che altri brani. Il pezzetto che vi traduco dall'inglese dice così: inspirando per gustare, per sentire il sapore delle nuvole, lasciami andare via e sparire tra la folla. Voglio evaporare ed essere abbracciata dall'aria. Voglio essere acqua e scorrere senza nessun pensiero. Lei si chiama Coma, il pezzo che ho scelto, Wouldn't Be Good If It Was True. mi sa che pure voi avete sentito, insomma, dove mi sembrava che ci fosse questa sorta di ispirazione un po' ai Massive Attack e a delle cose che ci sono, ci portiamo dentro di questa band straordinaria. Lei era a coma e appunto su SoundCloud potete magari ascoltare anche le altre cose che non abbiamo il tempo di sentire qui a Sisterhood, cercandola con The Coma Collection. Prossima artista si chiama Maya Jane Cole. Mi è venuto in mente di farvi ascoltare lei tramite un altro artista. A fine gennaio qui a Roma ci sarà Anya Schneider, non ho mai capito come si pronunci, che è una DJ, una producer molto molto bella che io amo molto e che vi ho fatto ascoltare qualche altra volta qui a Sisterhood. E quindi anziché nel ricordarvi questo concerto, quindi cercate sui vostri siti di riferimento dov'è, appunto come, quando andarla a vedere e dove andarla a vedere, pensando a lei mi è venuta in mente invece Maya, che da poco ha tirato fuori questo EP che si intitola Easier to Hide, più facile nascondersi, un EP che contiene 4 tracce. Lei è un po' rispetto alla Schneider, un po' più diciamo sul dance house, che non è un genere che io gradisco molto. Speriamo, diciamo, che un po' come succede in questo pezzo che ho scelto per voi, che si intitola Over, lei viri un po' più a quelle sonorità sexy, ipnotiche, più alla Little Dragon, per intenderci, insomma, che ci è piaciuta molto l'anno scorso con l'album Ritual Union. Quindi, insomma, questo pezzo è molto bello, mi è piaciuto molto e quindi spero che lei continui su questo stile. Lei si chiama Maya Jane Cole e il pezzo si intitola Over. Thank you. Jane Cole, il pezzo si intitolava Over, prossima band si chiamano Eternal Summers, estati eterne, insomma quello che molte di noi desidererebbero avere. E loro sono Nicole Yoon e Daniel Cundiff, a cui si è aggiunto poi il bassista Jonathan Woods. Ma appunto comunque restano sostanzialmente un duo, vengono dalla Virginia e diciamo che sono una di quelle band che si fa il nome suonando in giro, quindi aprendo i concerti per band molto più famose. Hanno fatto uscire diversi EP, insomma, che potete ascoltare sul loro Bandcamp e anche acquistare se vi interessa, a pochissimi dollari, a pochissimi urini. L'ultimo lavoro si chiama Correct Behavior ed esce per una etichetta molto interessante che si chiama Canyon Records, K-A-N-I-N-E, che vi consiglio appunto di andare a controllare, di guardare, perché appunto ci sono tantissime band molto giovani, tantissime donne tra gli artisti appunto che lavorano insieme a questa etichetta indipendente. Questo pezzo mi ha conquistato subito, quindi insomma non indugio oltre, vi faccio ascoltare, tratto dall'ultimo EP Correct Behavior, che è uscito a luglio dello scorso anno per la Canyon Records, appunto. Loro sono Eternal Summers e il pezzo si intitola Good As You. qua di schitarrate romantiche con Eterna Summers, ma non vi preoccupate che insomma il registro poi del mio mood cambia. E in realtà, appunto, come sentite in sottofondo, sono anche molto, molto divertenti, è una band piuttosto indie pop, quindi insomma ci sono molte cose che potete ascoltare sul loro Bandcamp. Vi ricordo Eternal Summers. E prossima band, ecco, per cambiare proprio umore, loro si chiamano Never Ever, si sa pochissimo di loro come biografia. So che è uscito un EP per la Slumberland Records, che è una etichetta che seguo, per citarvi qualche artista che insomma abbiamo messo qui a Sisterhood, Frankie Rose oppure Veronica Falls, che insomma ci piacciono molto, e quindi con questo EP hanno attirato la mia attenzione. Devo dire che sono divertenti, e quindi insomma ci vuole per cambiare anche un po' il mood di questa puntata numero 30. 0649 1750 per comunicare qui con Radio Onda Rossa e col Martedì Femminista e Lesbica Autogestito, che andrà avanti, come sapete, fino alle 11 di questa sera. Prossimo brano Never Ever, il pezzo si intitola Wedding Day. Per rimanere in tema di questo sound un po' garage, un po' anni 60, che devo dire è una, una sonorità che moltissime band al femminile ripropongono, insomma, le Dum Dum Girls su tutte. Beh, su questo stile restiamo per il prossimo brano. Loro sono Beach Day, e quindi dal titolo non potete che immaginare, vengono dalla Florida, e insomma la Florida è una città un po' strana, è una beach town, una città insomma da spiaggia, che vive molto il legame con la spiaggia, con la vita da spiaggia, però è anche una città insomma un po' congelata negli anni 50, visto che era quello il periodo in cui è esplosa come città, quindi insomma in giro trovate gente molto molto strana, molto invecchiata, diciamo, come popolazione che pretende di essere ancora molto molto giovanile. La band Beach Day è composta da Kimmy, Natalie e Skyler. Il pezzo che ho scelto per voi, appunto, non vi può che far venire voglia di mettervi il costumino e buttarvi in spiaggia. Beach Day, il pezzo si intitola come loro, Beach Day. Siete stappate la vostra bottiglia da portare in spiaggia? Sì, penso di sì, perché questo pezzo fa venire proprio voglia di spogliarsi e di farsi una corsa sulla spiaggia. Prossima band si chiama Chromatics, sono una band attiva, loro sono originari di Portland, Oregon, e sono attivi dal 2001. È una band che ha subito molti rimaneggiamenti, insomma all'inizio c'erano due componenti femminili nella band, che poi appunto hanno lasciato nel corso degli anni. Invece c'è stato un nuovo acquisto, la voce e i sintetizzatori, che si chiama Ruth Radlett, e diciamo è rimasto soltanto uno dei membri originari, che era appunto Adam Miller, che suona la chitarra. L'anno scorso è uscito un album molto bello per la Italians Do It Better, che si intitola Kill for Love. Per qualche strana ragione mi sono sempre dimenticata di farvi ascoltare qualcosa da questo brano, quindi insomma invece adesso mi sembrava arrivato il momento giusto. Il pezzo che ho scelto per voi, tratto da questo album appunto, che vi ricordo si chiama Kill for Love, è uscito credo verso settembre del 2012, quindi insomma un po' di mesi fa, per la Italians Do It Better, una interessante etichetta anche questa, insomma cercatela su internet. Il pezzo che ho scelto si intitola Cherry. We'll be right back. E quanto dobbiamo alla musica degli anni 80 in tutte le sue forme nei nostri giorni? Tantissimo. Vi ricordo che ho fatto un errore prima: questo album da cui è tratto Cherry, il pezzo che avete appena sentito dei Chromatics, è uscito a marzo del 2012. Prossima artista è un duo, si chiama Evie Jane, la vocalist e pianista del duo si chiama Evelyn Mason, penso che sia veramente veramente molto molto dotata. È una sorta di esperimento interessante, anche abbastanza comune negli ultimi tempi, di elettronica sperimentale che in qualche modo si interfaccia con quello che è l'R&B, il traditional, insomma la parte più tradizionale e anche più interessante dell'R&B. Io non sono una grande fan dell'R&B, non mi ha mai presa, ero in tutt'altro genere, in tutt'altre diciamo culture e sottoculture in quegli anni di esplosione dell'R&B, soprattutto in Italia e in Europa, però penso che questo pezzo sia veramente molto bello. Loro sono Evie Jane e il pezzo che ho scelto si intitola Not So Great. Crumpled cotton bed and aching white lace. Oh, pigeon winged Lucy with a smile on her face. On her face. Cavernous cut and the weeping you told me. E decisamente Yves Jane tocca delle corde, insomma, che vibrano abbastanza profondamente, secondo me. Prossima artista si chiama Torres, lei è molto giovane, il prossimo 22 gennaio uscirà il primo album omonimo di questa giovanissima artista, originaria di Nashville, il suo vero nome è Mackenzie Scott, appunto è una cantautrice, una songwriter che sostanzialmente mi sembra che cerchi di esprimere molto della sua emotività, della sua parte emozionale all'interno della sua musica. Mi ha molto colpito questo primo pezzo, che è stato il mio primo ascolto, che appunto anticipa il suo prossimo album, che sono curiosa di ascoltare, quindi lo riascoltiamo insieme e ve lo faccio conoscere. Lei si chiama Torres, il pezzo che ho scelto, appunto, che anticipa l'album omonimo, si intitola Mother Earth, Father God. Bye. E allora, che cosa ne pensate? Questa era Torres, il suo album uscirà il 22 gennaio, insomma, una bellissima voce, insomma, dei testi un po' intimisti, quindi vedremo se riuscirà a tirar fuori qualcosa di originale dalle prossime cose. Allora, riguardo la scaletta, perché siamo insomma in chiusura, quindi vorrei farvi sentire qualcosa di, non so se restare sul morbido, sul folk magari. Sapete che io sono un'appassionata, quindi insomma in qualche modo il mio cuore va sempre lì. Lei si chiama Martha Tilston, ho deciso. Martha Tilston è una cantante folk che più british non si può, quindi insomma in qualche modo questo influisce. La cultura britannica folk influisce tantissimo su quello che poi si scrive e si suona. È una bravissima chitarrista, veramente molto dotata e ha veramente la capacità di farvi sentire le sue dita, le sue unghie sulle corde quando suona e quando canta. Il pezzo che ho scelto per voi, che non mi ricordo da quale album ho tratto, lei comincia a suonare intorno al 2000, quindi insomma è un po' di anni, sono ormai 13 anni, è figlia d'arte, suona da tantissimo tempo, ha cominciato dal 2000 a fare cose sue, insomma è una mia coetanea, quindi prima suonava in altre band, faceva una musicista di professione, professionista. Il pezzo che ho scelto per voi è Stags Below, lei si chiama Martha Tilston. Come around again. Sister is Blooming sta per terminare, sono le 18.25 qui dal martedì, femminista e lesbica autogestito da Radio Onda Rossa. Vi ricordo i riferimenti 0649 1750 per contattare le prossime interessantissime, bellissime trasmissioni che seguiranno la nostra trasmissione di Sister is Blooming. Dopo di me ci sarà Atti e Misfatti, appuntamenti, iniziative, comunicazioni, idee di femministe e lesbiche in Italia, a volte anche nel mondo. Oggi si parla di un sacco di cose importanti: Istanbul, un'autoproduzione di femministe e lesbiche che si chiama Digitalis Purpurea, e anche la proiezione lesbiana al Kesbile qui a Roma, insomma, quindi tante altre cose, e poi gli altri programmi che magari conoscete bene. Per scaricare il podcast e guardare la playlist per le cose che vi siete, diciamo, perse, www.twowomenshow2@wordpress.com, oppure se siete social network dipendenti oppure vi piace sbirciare nelle vite degli altri, Sisterhood is Blooming su Facebook. La prossima artista è un'artista che io adoro tantissimo, si chiama Lisa Germano, non ne ho mai parlato qui nella trasmissione. È una artista che nasce nel 58 nell'Indiana, è una polistrumentista, una che comincia a suonare il violino quando ha 7 anni, e a 33 anni pubblica nel 1991 pubblica la sua prima opera personale, il suo primo album singolo, che si intitolava On the Way Down from Moon Palace. È un artista molto interessante, molto particolare, molto sperimentale. Appunto, è una che ha la capacità di suonare quasi tutti gli strumenti, quindi sperimenta ed esplora, penso, un po' anche tutte le possibilità di esprimere quello che si vuole dire, quello che si sente attraverso la musica, oltre che attraverso la voce e le parole. L'ultimo album uscito per la Young God Records, anche questa è un'etichetta di cui abbiamo parlato spesso, si intitola No Elephants. Quindi Sister is Blooming e Donna Sonica vi salutano e vi lascio con Lisa Germano e il pezzo che si intitola And So On. So